stessa pasta bionda, non la bevo, sai, ce l'hai scritto che la vita non ti viene come vuoi, ma è la tua, per me è speciale, se ti può bastare, sai che se hai voglia di ballare, uno pronto qui ce l'hai, balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica, cadremo ballando, sul mondo lo sai, sì, ci vola, facciamo un fandango, e sotto qualcuno riderà, balliamo sul mondo. Non ti offro grandi cose, però quelle lì le avrai, niente case né futuro né certezze, forse guai, ma se dall'Atlantide all'Everest non ci posso per noi, beh, guido io e questo tango ci facciamo posto, dai, balliamo sul mondo, mi porto le scarpe da tietà, cadremo ballando, però il mondo non si fermerà, facciamo un fandango e sotto qualcuno fischierà, balliamo sul se c'è chi perde, noi balliamo casomai, non avremo classe, ma abbiamo gambe e fiato, fighi mai! I don't know where I'm at.